Deluso! Cosa direbbero adesso se parlassero i muri? La verità è che sono stata disperata, derubata, e quindi basta fare la brava. No, no, no, no, non mi fido di te, anche se tu me lo giuri. Che sei cresciuta nella giungla, ragazza, no, non ti vergognare. Affascinante quella lacrima sul volto, ma non è vero che piangevo di nascosto. Pensavo quante cose che non rifarei, nessuna. Credo che Gesù fosse una lei delusa come me una sera di quelle che sono nera. Ma io non ti conosco e so che sei, sei Giuda. Fai sentire me come anche lei, delusa. Scandalo nel buio di mezzanotte in punto, una bella ragazza delusa. Cosa direbbero adesso se parlassero i muri? Ne avranno da parlare, ma per fortuna stanno zitti sulle voglie e sui delitti. E mi fa santa il pubblico a casa. No, non sei scesa nei dagli ottanta. Lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza, ma non ti devi vergognare. Quante cose che non rifarei, nessuna. Credo che Gesù fosse una lei delusa come me una sera di quelle che sono nera. Ma io non ti conosco e so che sei, sei Giuda. Fai sentire me come anche lei delusa. Scandalo nel buio di mezzanotte in punto, una bella ragazza delusa, che si perde, si prende, si usa, che si sente passata, presente, futura. Delusa, chissà se morirò delusa, dal cielo blu buttata giù, caduta. Delusa.